connessione, capito? E adesso funziona bene. Se non ho più problema. Se c'era qualcosina, come lo metti in tasca pure a me? Io ho la custodia e completo di quei tasti lì laterali, capito? Sono coperti, per cui non dovrebbe entrarci niente di polvere e cose del genere, capito? Yeah. Ora, infatti, gli avessero fatto una bella riforma, non va dire, perché io dopo andare a 67 anni e 8 mesi, quasi a 68 anni, andarmi in pensione, quando invece mandi tutti quanti, uomini e donne, a 65, tutti a 65, si liberano un sacco di posti di lavoro, e sono i giovani così, invece no, c'è gente che va a 67 anni e 8 mesi, capito? Io mi ho fatto il calcolo della mia pensione, e mi dice, 67 anni e 8 mesi, 5 anni non me li ho conteggiati, però perché li avevo fatti in agricoltura da ragazzo, capito? E però poi l'Inps mi ha risposto, no, non si preoccupi, quelli li recuperiamo come contribuzione al momento che andrà in pensione. Ho detto sì, però mi dice che io in pensione ci devo andare a quasi a 68 anni. Ho detto, e quanto devo lavorare? No, lei prima di andare in pensione, sì, ma se il sistema mi dice che io ci devo andare a 67-8 mesi, come faccio a venire un anno prima se poi ho 5 anni di agricoltura che tu non me li hai conteggiati e magari mi dici che potevo andare anche a 65 anni? Sono tutti marchi all'Inps. Che dico, non so, forse che il governo dovrebbe cambiare la legge, perché così, così per la prima addirittura c'è gente che andava a 55 anni in pensione. Così facendo, lavoratori pulire i trattori, perché se quello lavora, se quello non se ne va in pensione, no, se quelli, se tanti persone grandi non se ne vanno in pensione, non gli dà la pensione, come ha fatto a creare altri posti di lavoro? Se devi travagliare direttamente a cosa? Capito? No, vabbè, io dico se sei giovane, allora, Yeah. Deve essere regolare, deve essere così.

capito. Poi da lì ho lavorato 2 anni alla BPS Riscossione, perché mi avevo preso una qualifica di ufficiale esattoriale alla Procura della Repubblica. Poi ho lavorato 10 anni al Banco di Sardegna, poi neanche lì è andata bene, dopo 10 anni ci hanno licenziato e ho lavorato 7 anni per un'azienda farmaceutica. Dopo 7 anni anche lì è andato male tutto il settore, hanno licenziato più di 8.000 persone nel settore dell'informazione scientifica, e è finito anche quello. Mi sono arrivato un lavoro, un anno lavorato a Olbia e facevo i controlli al porto. Poi mi sono preso le qualifiche all'ENAC, ho iniziato un anno lavorato all'aeroporto di Olbia e poi sono arrivato ad Alghero, e dal 2007 sono sempre ad Alghero, all'aeroporto, ma adesso ad Alghero ci sono 15 anni, quindi qualche contributo ce l'ho anch'io, ma stando all'INPS, capito, mi mancano anche 5 anni di agricoltura che mi verranno conteggiati al momento della pensione, capito? Sì, all'aeroporto sì, già lo conosco Alessandro, lavora a Cinquin, lo conosce anche Claudio, c'ha una centrale, lui praticamente c'ha un traliccio, mi ha fatto vedere le fotografie dove lui è arrampicato con le cinghie, addirittura ha messo sopra la luce d'avvitamento, capito, la luce rossa, ha dovuto montare. Sì, sì, benissimo. Ci si ascolta così, tante cose belle, voglio raccontare. spiegaci, sì, ascolta. Sono Antonio, buon tutto, alle prossime, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Troppo pesante stesso, quindi lo capisco, ma insomma, faccio un bel lavoro qui, inizio a vedere a riposarsi. Ecco, come è andato un messaggio a te, se faccio ti devi stendere, capito? Poi secondo il lavoro che fai ha bisogno di riposo. Niente, ti stavo dicendo, Alessandro, sì, a volte ci fermiamo a chiacchierare qua e là, e anche lui me lo stava dicendo, perché non te la prendi tu la patente, che ne sai, già ne sai, no? Parlando di noi ci fermiamo spesso a chiacchierare, a parlare di ponti, di ripetitori, di shift, di questo, di toni, di sottoni audio, eccetera. Io qualcosa già la capisco, già la mastico, però ho detto non l'ho fatto prima, ma adesso è più semplice, lo fai online, eccetera. Ho detto non mi devo recuperare il tutto il programma, eccetera. Magari più là ci farò un tentativo, non so come sia, adesso neanche l'esame non ne ho la più pallida idea, se sono sempre severi, eccetera. Non so che dire, se no può darsi pure che magari qualche apparecchiatura in più l'avrei presa allora. Posso farvi, diciamo, cosa avete provato in due poc'anzi? Ci siete? Ecco, che ti ho mandato un messaggio dopo che lo ascolti. Capito? Buongiorno. Va bene, se io posso ti darò anche la mia risposta. Non so di cosa. Mi avrei parlato comunque, non c'è problema. Ciao, Alberto. Va bene, ciao, ciao, Dante. Sì, anche io avevo questa pallina qua, ma poi ho notato che io non ho tempo, sono molto impegnato sul lavoro, molte volte quei 5 minuti che scatti, oppure sono 27, e sai, poi bisogna avere altro, infatti io vedendo gli altri, parlo sempre, tu mi dirai, sì, va bene, sei alla radio, ma vale la pena, ok, ci stai, però non è così perché nell'ambito radioamatoriale non è questione di avere solo una frequenza, devi averne qualche non in più perché praticano su 3, 4, 5 frequenze contemporaneamente, tu sei nella radio per poter ascoltare e rispondere allo stesso tempo, allora sei, diciamo, praticamente un po' all'avanguardia, un po' più alla radio così, che puoi andare sui guardacinte, sui tortellini, le cose varie, su quella TV, sui TV, allora va bene, però con le ovunque, va bene, che ci sono delle frequenze che ci sono dei punti radio, so benissimo anche quali sono, credo, ci sono delle persone che hanno 3, 4, 5 apparati accesi contemporaneamente, quindi devi stare proprio attento a rispondere e quindi dovresti avere anche determinate radio per poterle rispondere, insomma, non so neanche se così. Sì, ho capito, ci vuole anche un bel po' di tempo da dedicare, io anche come te, lo stesso, sempre molto impegnato con lavoro, turni e questo e quell'altro, quindi anche frequentare un eventuale corso che magari ha i suoi orari fissi, eccetera, mi è sempre venuto in salita, io sono la bellezza di 25 anni che sto facendo turni, perché anche quando lavoravo al Banco di Sardegna ho fatto per 10 anni turni e al centro di lavorazione da lì si faceva una settimana di mattina, una di sera, una di notte, adesso sono 20 anni, non so, altri 20 che ne sto facendo di turni, quindi sei un po' la mattina, un po' la sera, quindi prenderti altri impegni di frequentazione, di corsi, eccetera, ce li hai proprio contati, sono sporadici e anche il tempo da dedicare anche alla radio, alle prove, all'installazione di un sacco di antenne, capito? E ci vuole un bel po' di tempo per quello che ti miseria, forse più in là, e magari avrò più tempo se finirò con l'attività del lavoro, e magari allora mi ci potrò dedicare, anche se l'età sarà più avanzata, però non è mai troppo tardi, capito? Sì, Ciao Claudio, sì, no, ma io già so benissimo cosa significa e cosa c'è dietro, perché grazie a Dio già ho visto e ho alcuni amici radioamatori che mi hanno fatto vedere cosa c'hanno. L'ultimo è anche Claudio che mi ha fatto vedere le foto di quello che c'ha e prima di diventarci, lui che è diventato da poco, ne ha accumulato di bella roba, per cui so perfettamente quello che volevi dire prima e l'ho capito. Non è semplice iniziare senza niente, no? Io forse più in là, forse, ma adesso ancora non ce l'ho il tempo e neanche lo spazio per da dedicare così tanto, quindi per adesso la piccola soddisfazione così di parlare, fare quattro chiacchiere così con la 27 va più che bene per me, capito? E non mi voglio spingere oltre, magari più in là farò un po' di radioascolto, magari mettendomi un discone, collegando qualche scanner, però da base, non quelli portatili che non mi piacciono, capito? E vedo un po', poi se la passione continua più avanti, vedrò un po' se riesco a trovare lo spazio e il tempo. Avanti Tino. Ciao.